Será por la estrada, caminaré, practica musicale. Tutto bene, chiamantare troppo tempo. Buono giorno, di cantare sentimento. Tutto bene, serenata se chitare. Poco male, poetico por la vita. Tutto bene, son di mare uditore, casi volto, tempo allegri, movimento. Arriveder la notte più sarà, arriveder la notte più sarà. Serenata dolce sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora. Será por la estrada, caminaré, practica musicale. Tutto bene, chiamantare troppo tempo. Buono giorno, di cantare sentimento. Tutto bene, serenata se chitare. Manco male, poetico por la vita. Tutto bene, son di mare uditore, si volto, tempo allegri, movimento. Arriveder la notte più sarà, arriveder la notte più sarà. Serenata dolce sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora. Sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora, serenata dolce sonora.